ragazzi, posso dire una cosa? Quando parlavi del diario di Eugenio, perché è effettivamente simbolico di una pervasione, quella di cui parlavi tu, che effettivamente è estremamente invasiva, nel senso che occupa praticamente tutti gli spazi di informazione, di conoscenza dei cittadini. Tutti questi spazi vengono occupati in senso praticamente unilaterale. Allora il problema poi diventa quello di inserirsi in questo contesto, di inserirsi in questo contesto e di riuscire a fare sentire una voce diversa, che diventa molto complicato, perché in genere la voce diversa, quando anche riesce a inserirsi, viene sbeffeggiata, viene umiliata, viene considerata retaggio di una minoranza quasi folcloristica, e quindi non riesce ad attecchire. Tranne poi che quando in effetti certe cose vengono realizzate, la gente poi si ritrova con la consapevolezza che in effetti il proprio territorio è stato danneggiato, il proprio territorio è stato violato, e si trovano delle infrastrutture che poi tende a respingere, perché dice: ma che cavolo mi hanno fatto qua? Il problema è, secondo me, che effettivamente bisognerebbe cercare di fare un lavoro di prevenzione, cioè far sì che la gente abbia la consapevolezza preventiva di quello che sta avvenendo. E perché spesso la lamentela, purtroppo in Italia, e poi la consapevolezza arriva solo a cose fatte, ti rendi conto, dice: cavolo, forse quello là però non aveva tutti i torti, perché adesso io mi ritrovo in una situazione veramente pesante. Però la difficoltà è proprio questa: come potersi inserire in un contesto del genere, cioè riuscire a penetrare e riuscire a avere una voce che sia, da una parte dia un'idea di autorevolezza, cioè nel senso, tu prendi a parlare per esempio di Maddalena, ecco, cioè è un esempio di una voce autorevole che comunque può entrare d'accordo, di avere una possibilità di inserirsi in un contesto, che lo vediamo anche qui a Piategrasso a livello comunale, eccetera. Le voci ci sono, ma poi dopo di fatto il comune si compatta immediatamente, nonostante tutte le differenziazioni le problematiche che hanno all'interno della maggioranza, riescono sempre a compattarsi davanti a certe scelte, davanti a certe situazioni. Quindi quello che effettivamente credo che un libretto del genere, il tuo girare per l'Italia, eccetera, questa rete che tu di cui stavi parlando, credo che sia effettivamente l'unica soluzione, cioè fare veramente rete in maniera che non ci sia Piategrasso, non ci sia il lago, che non ci siano situazioni isolate, ma che veramente ci sia una rete che capisca che il problema non è locale, ma il problema diventa nazionale, sono addirittura di più. Ma da questo punto di vista tu hai l'impressione che questa rete si stia costituendo e che possa effettivamente essere poi un motore un grosso motore di spinta in questo senso, cioè che possa diventare qualcosa di importante da questo punto di vista, perché effettivamente quello di fare rete mi sembra l'unica soluzione possibile per uscire da questo tipo di problematica. Ma no, la rete c'è, ed è una rete anche molto diversa e articolata rispetto magari, no, alle reti che si possono immaginare. C'è la rete degli spazi sociali autogestiti, centri sociali, c'è una rete di quella. Poi ci sono anche reti che noi non immaginiamo, ad esempio c'è una rete di mamme, no? Ci sono le mamme col passeggino di Brindisi che tutelano i diritti dei loro bambini dalla centrale a carbone, ci sono le mamme di Castenedo alla Brescia che hanno recentemente affittato un ultraleggero, hanno affittato questo ultraleggero, hanno fatto il giro di tutta la provincia di Brescia per documentare il TAV, le cave, le autostrade, i brevemi, tutto, perché hanno un'attività di comitato, no? Ci sono le mamme vulcaniche a Taranto, ci sono le mamme terremotate all'Aquila, no? Ci sono tanti, ce ne sono molte, e sono presenti in giro per, no? Poi ci sono tutti i movimenti ambientalisti, i comitati, infrastrutture. Quindi la rete è molto diffusa, è molto capillare. E c'è la possibilità di compattare. La possibilità di compattarle, secondo me, può esserci soltanto se si cambia il modo di fare politica. Cioè deve proprio cambiare radicalmente il modo di fare politica e secondo me deve in qualche modo essere messo subito da parte l'idea che invece si è consolidata negli ultimi 20 anni, che la politica la devono fare i leader, che la politica devono fare le strutture piramidali con la sezione, il circolo. No, alla fine bisogna anche lasciare spazio alla spontaneità, però ci deve essere un paradigma, che poi in realtà il paradigma c'è, un paradigma alternativo a quello che ha intossicato e che ormai è decadente, c'è in realtà, perché esistono tutte le cognizioni di causa, abbiamo tutti i dati, sappiamo quali possono essere i modi diversi per fare reddito, come si dovrebbe gestire il territorio, come si dovrebbe gestire l'energia, come si dovrebbe gestire anche la partecipazione, abbiamo tutto. L'unica cosa che hanno tolto dallo Sblocca Italia, l'unica cosa che c'era, che aveva un minimo di senso, era il dibattito pubblico, come esiste in altre democrazie, previsto nello Sblocca Italia prima di fare qualsiasi opera. Cioè, il débat public che c'è in Francia, prima di qualsivoglia idea che possa arrivare in testa a qualche politico, deve vedere una partecipazione effettiva da parte dei cittadini. Questa roba qui l'avevano messa nello Sblocca Italia probabilmente per indorare un po' la pila, poi dopo l'hanno tolta subito, perché vai a fare il dibattito pubblico in Val di Susa, no? Vedi se ti fanno passare, no? Il TAV, no? Oppure vai a fare il dibattito pubblico a Messina o a Taranto, vai a Taranto, fai il dibattito pubblico a Taranto, volete o no, no? Succede, trovi sicuramente qualcuno che viene a dirti no, noi lo vogliamo, il lavoro ci serve, però trovi anche oggi un movimento di opposizione forte, duro. Quindi la rete esiste, ci vuole qualcosa di diverso, un'idea diversa, più neanche democratica, no? Perché questa parola poi esiste, la democrazia se i cittadini consapevoli. Ogni tanto poi dopo no, ci si interroga quanto sono consapevoli i cittadini, quanto siamo in democrazia. Il voto, se te lo comprano con 30 euro, è un voto buono, no? E vale tanto quanto il voto di chi ha studiato i dati dell'inquinamento, no? Quindi andrebbe fatto un altro bel ragionamento su questo. Però comunque, dal punto di vista del movimento politico necessario, potrebbe essere proprio, no, qualcosa che nasca con struttura orizzontale, partecipata, senza io credo che non debba avere nessun leader. Se proprio deve avere un leader, non deve essere un vertebrato maschio, deve essere qualcosa di diverso, altrimenti poi si entra nelle solite logiche, no, dei gruppi di potere. Che c'è la grossa difficoltà che siamo l'Italia, il paese del familismo amorale, degli amici degli amici, questo qui, no? E poi il grosso problema che talvolta alla fine attraversa anche alcuni movimenti, alcune, no? Alla fine siamo il paese del tengo famiglia, e quindi mi va bene se vado contro quello lì, oppure poi dopo mi danno qualche cosa, no? E quindi è dura, è difficile da questo punto di vista. In un momento poi di crisi come questo, di oggi, c'è gente che fa politica per tirare a campare. Cioè, abbiamo comunque persone che grazie alla politica vanno avanti e non hanno, no, hanno il lavoro. E ce ne sono tanti, li conosciamo anche noi, no? E quindi è difficile, no, avere anche un rapporto e riuscire ad intavolare un ragionamento sulla base del bene comune in maniera senza rete, senza punti, perché se tu quello è il tuo lavoro, devi tenerti la poltrona e quindi mantenere il potere, non farai quello che serve veramente a tutti, ma alla fine ti accorderai. Quindi c'è un problema italiano, vabbè, però questo lo raccontava già Gramsci, no? Non stiamo dicendo nulla di nuovo. Ma credo che tu hai toccato proprio un paio di punti anche essenziali, perché quello del lavoro e quello della crisi collegato al discorso del lavoro diventa oggi un discorso ricattatorio enorme. Perché c'è la crisi, c'è il lavoro, quindi io ti offro il lavoro, tu stai bello quieto e non rompere le scatole, perché sennò il lavoro lo perdi subito. Tutte queste opere vengono vendute con l'idea di fornire lavoro. Noi sappiamo bene che il lavoro potrebbe derivare da tutta una riconversione industriale, eccetera, che potrebbe essere attuata, ma tutte queste opere, perché se sentire anche proprio nel sentito della gente c'è questo discorso, sì, ok, Expo, eccetera, cavolo, però Expo magari stanno dicendo che daranno un sacco di posti di lavoro, perché tutte queste cose nascono anche sul ricatto del lavoro, che oggi come oggi è ovviamente una leva fortissima, che spinge tanto su queste cose, che poi sia tutto fasullo, che poi sia tutto lavoro precario, eccetera, però è una leva veramente molto forte, e lo usano come ricatto in una maniera, insomma, indegna. Cioè, è veramente vergognoso usare una cosa dignitosa come il lavoro per fare questo tipo di ricatti. Siamo in un sistema feudale. Sì. Con i servi della gleba. Con i servi della gleba, giullari. Si è perso il senso della base, cioè la base non esiste più, non siamo più abituati ad ascoltare, cioè noi praticamente la gente, no? Non viene più ascoltata, non si parte più dal basso, è solo l'alto che pensa, fa, gestisce, ti ordina di fare per avere dei tornaconti poi personali, che non sono certo i nostri, di noi. Anzi, più delle volte arrivano contro di noi, come la storia dell'Expo, no? Se vogliamo vedere, quello che avete detto entrambi è giusto, cioè condivisibile, venderti l'Expo come probabile, non so, possibilità di dare lavoro, fornire lavoro alle persone, può diventare per la maggior parte della gente qualcosa di allettante, no, al momento, però poi invece dietro ci sono questi giochetti di potere, di favoritismo, di clientelismi, eccetera, che qui in Italia ormai sono ben radicati da anni e anni, e non si riesce a venirne fuori. Ma perché fa comodo? Fa comodo, e poi avremo un problema di democrazia comunque, di rispetto, rispetto. Fa comodo a qualcuno, in generale a quei pochi che stanno al vertice. Tenere la maggior parte di noi con gli occhi chiusi, la bocca bendata, e quindi